Time Rock and Roll. Buonasera a tutti. E ragazzi, che è successo? Riusciranno i nostri ascoltatori ad ascoltarci tutti, tutti e cinque insieme? Non lo so. Stiamo perdendo colpi. E iniziamo questa nuova puntata di oggi con un compleanno. Con i Ramones. Esattamente il compleanno di Tommy Ramone, pseudonimo di Thomas Erdley, nato a Budapest il 29 gennaio 1952. È un batterista, produttore discografico naturalizzato statunitense, nato in una famiglia di ebrei ungheresi, cresciuto nel Queens, in uno dei quartieri di New York. È l'ultimo membro vivente dei fondatori del gruppo punk Ramones. È stato lui a spingere infatti gli altri tre ragazzi di Forest Hills a formare la band. Inizialmente aveva un ruolo di manager all'interno della band ed entrò nei Ramones come batterista al posto di Joey Ramone, sia perché Joey non riusciva a stare dietro alla velocità sempre maggiore di esecuzione della band, sia perché la ricerca di altri batteristi si rivelò infruttuosa. Si presentarono alle audizioni per il posto di batterista persone che sapevano suonare la batteria con uno stile heavy metal che non era quello che Joey, Didi e Johnny stavano cercando. Per Tommy si trattò della prima volta da batterista nella sua vita e Joey si dedicò poi al ruolo di cantante del gruppo. Per fortuna, aggiungerei. Effettivamente sì, è stata una bella scossa. Nel 78, effettivamente, caro Riccardo Bindi, Nel 78 sta muto, lasciò il ruolo di batterista a Marky Ramone, stremato dalle innumerevoli esibizioni dei Ramones ed anche perché non veniva considerato un vero Ramone in quanto aveva uno stile di vita troppo distante dagli altri della band. Era una persona molto più tranquilla. Lasciò la band anche perché era sempre preso di mira dagli altri componenti con continui scherzi anche abbastanza pesanti, per la maggior parte ad opera di Didi. Poverino. Era un po' la pecora nera della situazione. Era sotto bullismo da parte di tutti gli altri. Blitz Get Pop, Ramon. Let's go!

a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ed erano Simon e Garfunkel con Mr. Robinson. Venghi, venghi, venghi tecnico. Posso? Si approfin qui allo strumento radiofonico. Yeah, buonasera, grazie. Buonasera. Sera, facciamo, sera, facciamo una piccola premessa. D'accordo? Sicuramente saranno accorti. Saranno accorti che il Patro purtroppo oggi manca perché è venuto a mancare dei problemi. Mi dispiace. No, non è venuto a mancare. Dai. Sì, ha avuto dei problemi familiari, quindi manca, anzi ne approfittiamo per salutarlo e quindi ciao Paul. In sua sostituzione abbiamo il tecnico Bindo, abbiamo che ci narrerà di Jumping Jack Flash. Che meraviglia la campagna. Non si sente un rumore, a parte gli uccellini, e puoi dormire fino a tardi senza che nessuno venga a disturbare. Questo è proprio per te, Amen. Magari, guarda. L'ideale per una rockstar. Infatti. L'ideale per due rockstar. Due, Anche io, Mazzeo. Mick Jagger e Keith Richards. Porto due coche? Sì, sì, sì. Sono, allora, Keith Richards e Mick Jagger sono a casa di Kate in campagna. Dormono, dormivano. Cos'è questo rumore? Chiede Mick. Kate fatica a capire. Poi in un'illuminazione Jack Dyer, il giardiniere, stropiccia gli occhi, poi dice: oh, è Jack Jumping Jack. Jumping Jack? Curiosa espressione, pensa Mick. I due si preparano con calma. Ovviamente sono due rockstar. Arrivano in studio, è il 1968, stanno lavorando a Beggar's Banquet. Gli altri sono già lì. Bill Willman era arrivato prima di tutti e si era seduto al piano ed era venuto fuori un riff pazzesco. Brian Jones aveva aggiunto le chitarre e Charlie Watts la batteria. Quando Mick e Kate entrano, stanno suonando attorno a quel riff. I due pensano sia fantastico, l'ideale per impiantarci una canzone. Manca un testo. Mick si ricorda di Jumping Jack. In poche ore è pronto. Jumping Jack Flash. Diventa un successo clamoroso, tutti felici meno Wyman. Il riff da cui è nato era suo, ma la canzone esce a nome di Jagger Richards, come tutte quelle degli Stones. Rolling Stone, Jumping Jack Flash. We'll be right back. Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Polpa mi manchi. Dichiarazione in diretta, spudorata. Non senti più nessuno accanto a te. Un vuoto fra me e il nano incolmabile. Continuiamo con Yaror Butterfly, Inagada da Vida, di cui la versione definitiva dura 17 minuti e 15 secondi. E noi ve la dovremo ascoltare tutta per due volte. Due volte. Buon ferie. Arrivederci al mercoledì prossimo. Stiamo scherzando, logicamente. Occupa tutto il lato B dell'omonimo album del 68. La versione live ne dura addirittura 19,51, giusto per rincarare la dose. Il singolo radiofonico invece poco meno di 3 minuti. È quello che abbiamo scelto. Per fortuna. Te lo dico prima. Per i nostri ascoltatori. Sì. Bellissima canzone, però insomma, 20 minuti. Poche parole, dall'inizio alla fine, il resto è solo musica psichedelica, rock, forse anche heavy metal. In quel fantastico 68 sono per l'appunto Hendrix, gli Steppenwolf, i Blue Cheer e gli Iron Butterfly a dedicare il nuovo genere con le loro progressioni violente. Il titolo del brano, in sé per sé, non ha alcun significato, è soltanto una storpiatura di In the Garden of the Eden. Molte furono le ricostruzioni più o meno fantasiose su come avvenne la tale storpiatura. La più accreditata, infatti, racconta anche nelle note della ristampa dell'album del 95, è che il cantante Dodge Ingle, completamente ubriaco, più verosimilmente sotto l'uso di droghe, rispose con la bocca impastata alla domanda da batterista Ron Bashi, che voleva conoscere il titolo del brano. Ron capì Inagada da Vida e così scrisse sulla copia del demo. Quando, chissà che voleva dire. Pastava parecchio. Cioè, non lo so. Nel senso. È pastava, vai. Masa, senti come da buon impastatore. Sì. Si pronuncia anche lui. Comunque, quando si è accorso dell'errore, nessuno vuole cambiarlo. Un po' perché piaceva il suono, un po' perché ricordava quelle atmosfere mistiche e di orientale spiritualità di quegli anni, con i Beatles e gli Stones innamorati dell'India. Inagada da Vida contiene inoltre anche un assolo di batteria di ben 2 minuti e mezzo. Altri tempi, davvero. Iron Butterfly. You know that I'm loving you in a God of a Vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? In a God of Vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of Vida, baby, don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come? Ed erano gli Iron Butterfly con Inagada da Vida. Io volevo ascoltare i restanti 16 minuti. 16 minuti, tutti. Mi dispiace. La rimettiamo. Rimetta, sì. Da capo. E adesso andiamo a parlarvi dei Cream e della loro White Room, che è un brano rock psichedelico scritto dal bassista Jake Bruce e dal paroliere Pete Brown, pubblicata sul loro doppio album Wheels of Fire nel luglio del 68. Fu rilasciato come singolo nel settembre proprio del 68. Il singolo raggiunse la top 30 in ben 7 paesi diversi. La registrazione di White Room, come riferito dagli stessi Cream, è iniziata nell'agosto del 1967 a Londra. Il lavoro continuò agli Atlantic Studios di New York nel mese di dicembre e venne terminato nel corso di 3 sessioni. Jake Bruce ha cantato e suonato il basso, Eric Clapton la chitarra, Ginger Baker batteria e timpani e Felix Pappalardi, non ridete vi prego, facente parte del gruppo dei produttori, ha contribuito suonando il violino. Cream in the White Room. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Tired starlings, I'll sleep. i Cream in the White Room. Ora ho detto bene. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. E adesso di nuovo io Padit a parlarvi di un prezzo dei Beatles. No. Grazie la Padit. No, no. Se questa è la canzone che tutti vorrebbero ricordare per come è stata scritta. Bravo. Ma al tempo stesso, grazie. Ma al tempo stesso tutti vorrebbero dimenticare per come è stata usata e per cosa è innescato. Ma senti, ora te lo dico. Nacque così. Nel 68 Paul McCartney aveva appena letto una recensione di I Can't Say For Miles The U. Dove il giornalista descriveva la canzone Vabbè, come la più fragorosa, sentito come fragorosa, come selvaggia, frana, come fraga, violente e selvaggia, ma registrata degli U. In un'intervista Mojo dell'ottobre Mojo. Intervista Mojo dell'ottobre del 2008, McCartney ha cambiato versione di questa storia, dicendo che non si trattava di una recensione, ma di un'intervista, e che era sua intenzione confutare le parole di Tauschend. Sei molto convinto. No, perché non sono d'accordo con quello che diceva. No, poco importa. In realtà si sentiva in colpa a pronunciare il nome Tauschend senza il padre. Sì, ho sentito perché che questo è un po' il suo. Sono sentito un po' Mojo. E poco importa, conta che Paul venne in mente di fare qualcosa di simile agli U. Fazzoletto? Hook! Scusate. Conta che Paul venne in mente di fare qualcosa di simile agli U. Una rottura temporanea con il passato. La prima registrazione per l'album bianco fu violenta e lunga 27 minuti. La seconda fu breve ma altrettanto dura. Tanto che alla fine si può sentire Ringo esclamare: ho le vesciche alle dita. Ehi Ringo! Le vesciche alle dita? Ah già. Le parole Helter Skelter, espressione inglese che definisce grandi scivoli di forma elicoidale che si trovano nel Luna Park, furono ritrovate il 9 agosto del 69, scritte con il sangue sui muri della villa di Bel Air a Los Angeles, dove Charles Manson e la sua setta satanica massacrarono 6 persone, tra cui l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta di 8 mesi. Basta. Ha capito ora? Manson aveva ascoltato le canzoni dei Beatles e si era convinto che il messaggio fosse chiaro: si stava avvicinando un conflitto razziale. I Beatles erano i quattro cavalieri dell'apocalisse che ammonivano il mondo e lo invitavano a preparare le loro cose per fuggire nel deserto. Fu da questa canzone che nacque la sua idea di uccidere e massacrare. Beatles, Helter Skelter. You ain't no dancer. Beatles, Helter Skelter. Dopo aver parlato del borsello del Bindi, continuiamo con la storia. Il borsello del Bindi fuori onda, chiaramente. Sì, certo, certo. Cioè, è bello gonfio, l'impregno è succulento. Per chi ne volesse approfittare. Diamo l'indirizzo anche. Se te lo metto, no, l'indirizzo, l'indirizzo, il numero di telefono. Nella prossima puntata. Ah, okay. Se te lo appoggio alla testa, ti fa venire la coppa. Il borsello. Il borsello. Devi sempre sei, te, sei te quello malizioso. Sei. No, vabbè, ma è sempre bene puntualizzare. Non c'è niente che faccia più paura di un tuo disco che sia andato al primo posto in classifica senza che tu sappia perché. Cioè le fortune tutte a quell'altro. Tutti a quell'altro, ovvio. Così è successo a Tommy James, che si accorse presto che l'incoscienza è madre di molti successi, mentre la troppa consapevolezza è figlia di pressioni e paure. In quel 68 non aveva alcun timore, nemmeno quando gli dissero che Bo Gentry, il suo autore di fiducia, non avrebbe più scritto per lui. Non per sua volontà, semplicemente la Roulette Records non pagava e lui non sapeva come andare avanti. Siccome quelli erano anni... Masa, te c'ha poco da ridere. Infatti, stavo per dirlo io. Dunque, ho perso... Allora, hai perso il filo. Fermi. Siccome quelli erano anni in cui gli editori facevano il bello e cattivo tempo, gli mostrarono la porta e gli dissero semplicemente: vuoi andartene? Bene, sappi che sei finito. Quindi andarono da Tommy James: è meglio che ti cerchiamo un autore, perché il tuo è andato e tu non sai scrivere canzoni. James non era d'accordo. Lui poteva scrivere canzoni. Chiamò il batterista. Si isolò in una stanza degli Allegra Studios, il famoso edificio dove venivano sfornati successi a ripetizione, e tornò mezz'ora dopo con Crimson and Glover, un brano dove aveva unito il suo colore e il fiore preferiti, cremisi e trifoglio. Il brano era molto corto, nemmeno 2 minuti e mezzo, quindi fu necessario editarlo al contrario, allungandolo un po' per permettere alle radio di passarlo. Fu un successo clamoroso che generò tuttavia attacchi di panico in Tommy James, che nel 70 collassò addirittura sul palco in Alabama, fatto che lo costrinse a trascorrere diverse settimane in ospedale e poi in solitudine. Quando sembrava essersi ristabilito, fu colto da un'altra crisi. Smarrita l'incoscienza, la paura aveva preso il sopravvento. Solo con grande fatica continuò una carriera tra pochi alti, molti bassi, un colore e un fiore, i cremisi e trifoglio. Tecnico, hai toppato. È quella dopo. Beatles, Helter Skelter. We'll be right back. mica falla tutta. Non ce la fa mica falla tutta. I Sondellas con Crimson and Clover. E ora torniamo a parlarvi dei Rolling Stones e del loro Sympathy for the Devil, traccia iniziale dell'album Beggar's Banquet del 1968. Si tratta di uno dei brani più celebri della band. È annoverata al posto numero 32 nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre redatta dalla rivista Rolling Stones nel 2004. Notare il 32, Mitra Matri. Ecco, che dici, io ci ho mette a dire. Sympathy for the Devil viene accreditata al duo compositivo costituito da Mick Jagger e Keith Richards, anche se la canzone può essere considerata principalmente una composizione del solo Jagger. Il testo del brano viene cantato proprio da lui, in prima persona, dal punto di vista narrativo di, udite udite, Lucifero. Ma te lo posso fare una domanda? Dimmela. Ma i Rolling Stones quanti sono? 4. Quell'altri due che fanno? Suonano. Faranno gli arrangiamenti. Richard, Jagger, Richard. Lo sempre so. Loro due, che l'altro fanno mai niente. Però sono famosi qua. Nel corso di un'intervista nel 1995 rilasciata alla rivista Rolling Stones, Jagger disse: "Penso che l'ispirazione venne da una vecchia idea di Baudelaire. Credo, ma potrei sbagliarmi. Alle volte quando rileggo i miei libri di Baudelaire non la ritrovo. Ma era un'idea che rubai a uno scrittore francese. Ne presi solo un paio di frasi e le ampliai. La scrissi come una sorta di canzone alla Bob Dylan." In realtà la memoria di Jagger è fallace, poiché la tematica del brano è chiaramente desunta dal romanzo dello scrittore russo Mikhail Bulgakov. Desunta, traduci desunta per gli ascoltatori. Presa. Presa? Presa, per buona. Dal suo romanzo Il Maestro e Margherita. Buono lo stesso. Pubblicato tra Margherita, basta, solo Margherita. Pubblicato tra il 66 e il 67, dove il diavolo viene descritto come un affabile gentiluomo dell'alta società moscovita. La registrazione di Sympathy for the Devil, ancora provvisoriamente intitolata The Devil Is My Name, ebbe inizio agli Olympic Studios Sound Studios di Londra il 4 giugno del 68, protraendosi fino al giorno successivo. Sovraincisioni varie vennero effettuate l'8, il 9 e il 10 giugno. Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. With the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Yeah. Rolling Stones con Sympathy for the Devil. E il diavolo. E ora sta di nuovo al tecnico. Amui. Vai, tu. Una delle canzoni più belle di sempre, scritta da Fred Neil, personaggio geniale e folle, che a un certo punto della sua vita ha sentito la necessità di mollare tutto e dedicarsi ai delfini. Grandissimo. Perché ai delfini? Ha fatto proprio perché sono carini. Ma ha portato al successo da Nilsson come brano di punta della colonna sonora di Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman. Lo stesso Dustin che aveva letto il romanzo e la sceneggiatura che ne è stata tratta era innamorato del progetto, ma temeva che la sua immagine, era reduce dal grande successo del laureato, fosse più forte di quella del personaggio che doveva interpretare. Un vagabondo storpio che viveva dei trucchetti e dell'elemosina. Punto. Punteggiatura qui non è che. Così diede appuntamento al direttore del casting all'angolo di una strada di Manhattan. Hoffman arrivò vestito da straccione e si piazzò all'angolo di strada con largo anticipo. Il direttore arrivò e non si accorse di lui per moltissimi minuti. Anche quando Hoffman si avvicinò per chiedere un quarto di dollaro, si scostò infastidito. Fu solo quando l'attore si presentò dicendo "Hi, I'm Dustin Hoffman" che il direttore del casting voce era capì questa, era tratta... il ruolo che era ruolo era suo. Suo. Era suo. Era tratta proprio da... Suo. Diciamo che nel 68 hanno scritto tutti i canzoni per Dustin Hoffman. Esattamente. Sì, infatti. Questo è Dustin Hoffman con Everybody. Scherzando. Harry Nilsson, Everybody's Talking. Ora va, ora va. Ce la facciamo. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Vai, vai. Ed era servito. La bellissima Everybody's Talking di Harry Nilsson. E chiudiamo oggi la... Possiamo chiudere, possiamo chiuderla. La storia del 68. E vi lasciamo quest'ultima canzone, anzi con una citazione di Billy Joe, cantante dei Green Day. Gli errori fanno la gran parte del nostro sound. Effettivamente. Green Day, Basket Case. Listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like I'm sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my... Dai, Masa, metti sta canzone, ma che fai? Niente, oggi abbiamo il tecnico... Abbiamo il tecnico molesto, quindi forse è meglio stare diretta per oggi. Non c'è di... Tutti e due sono molesti oggi, perché il Bini sta puntellando con un metro. Basta un po', dai, che sennò non ci servono. Se hai tanta voglia, vai fuori, mostra il borsello, vai fuori. Ecco, proprio. Infatti, erano i Green Day, anzi mezzi Green Day con Basket Case. E abbiamo concluso anche per oggi. Vi lasciamo ricordandovi come non sempre. Abbiamo concluso, però. Dai, che stai mixando col team? Rifallo. Mikhail Bulgakov. Ricordiamo gli appuntamenti con All Time Rock and Roll. Dai, 66, 87. Ragazzi, stiamo sforando. Hai messo la sigla? Bella la sigla. Ricordiamo gli appuntamenti con il Time Rock and Roll tutti i mercoledì dalle 19. Ricordiamo la nostra pagina Facebook All Time Rock and Roll Radio F. Ricordiamo l'appuntamento con Claudio stasera con Sugar Knight dalle 22. Dalle 22 e domani con Piazza Alta sempre alle 22. Grande, salutiamo, grande, grande, salutiamo il nostro compagno d'avventura Patru, che purtroppo non è potuto essere con noi. E quindi io salutiamo sono i Green Day. Salutiamo i Green Day. Ciao a tutti. Il Mata ha parato. Dai, salutiamo per bene, dai. Io sono il nanno, alla mia sinistra Luke, alla mia destra mercoledì Masa. Magari un pochino meno raffreddato. E ancora alla tua destra chi c'è? Polpa, ciao Polpa. Ciao a tutti. Un mazzo di idioti, ciao. Ciao a tutti. Ciao.